Un saluto a tutti i mostriciattoli di Radio Quartiere. Qui è il vostro Tommaso Purgatorio con Paura Supermix, volume 1. We'll be right back. Bye. Engage ignition. Report to sector 9 at once. Repeat. Engage ignition. Report to sector 9 at once.